Quanti limiti, li superi o limiti? C'è chi guarda un cerchio e ci vede uno zero, e chi vede l'infinito. Qui sembra agosto e il cielo delle 8 è Brooklyn. Niente di nuovo, come il finale di un film porno in Blu-ray. Voglio ballare su un filo di fiato soffiato dal vento sul mare. Voglio ballare su un filo spinato di rose senza farmi male. E poi strapparmi i pensieri via di dosso, vestirmi donne dentro questo mare mosso. E non sarò la stessa me, sarò me stessa, non hai niente da scegliere. Io sono questa e voglio fare tutto questo. Sarò me stessa, non hai niente da perdere. Io sono questa. Attimi che insieme fanno giorni, anni e secoli. Sto dentro una clessidra di sabbie mobili. Sul vetro vedo sogni piovuti, infiniti minuti di attesa. Che prima o poi succederà qualcosa. Il confine tra l'inizio e la fine, tra amare ed odiare, assurdo e normale. Voglio strapparmi i pensieri via di dosso, vestirmi donne dentro questo mare mosso. E non sarò la stessa me, sarò me stessa, non hai niente da scegliere. Io sono questa e voglio fare tutto quello che non posso, disobbedire ad ogni assurdo compromesso. E non sarò la stessa me, sarò me stessa. Sono questa. Voglio ballare su un filo di fiato soffiato dal vento sul mare. Voglio ballare su un filo spinato di rose senza farmi male. E poi strapparmi i pensieri via di dosso, vestirmi d'onde dentro questo mare mosso. E non sarò la stessa me, sarò me stessa, non hai niente da scegliere. Io sono questa e voglio fare tutto quello che non posso, disobbedire ad ogni assurdo compromesso. E non sarò la stessa me, sarò me stessa, non hai niente da perdere. Io sono questa. Voglio ballare su un filo di fiato soffiato dal vento sul mare. Voglio ballare su un filo spinato di rose senza farmi male.